presentando Severino Dianic, credo eufemisticamente presentandolo perché è talmente noto, per cui dover dire che insegna nello studio teologico fiorentino, che è presidente dell'Associazione Teologi Italiani, che ha scritto la Chiesa Mistero di Comunione, Chiesa di Missione, Ecclesiologia, eccetera, risulti un po' pleonastico, però fa parte dei doveri della presidenza di una sessione dei lavori e ho assolto con piacere a questo dovere e do la parola a Severino Dianic, il quale ci intratterrà sul tema «La carità è il fondamento della Chiesa, ovvietà e non ovvietà dell'asserto». Prego. Il tema della carità, collocato in un quadro ecclesiologico e discusso dentro questo quadro, non è un tema abituale della tradizione teologica post-tridentina. Se per appartenere alla Chiesa non putamus requiri ullam internam virtutem, la famosa espressione di Bellarmino, è naturale che non si pensi alla carità come ad un costitutivo della Chiesa. La insistenza del Vaticano II, invece, sul tema della grazia e del mistero, come la sua dimensione più profonda e più vera, è chiaro che ha provocato una rinascita di questo problema. Si aggiungono anche sollecitazioni provenienti dalla imponente esperienza di servizi, di fatto, resi agli uomini, al mondo, dalle comunità cristiane in maniera forse più dinamica in questi ultimi decenni, e anche questo ha sollecitato il tema del rapporto fra carità e Chiesa. Non è mio compito fare una rassegna di ciò che in questi ultimi anni è stato scritto e discusso su questo argomento. Esiste in stampa, dovrebbe uscire rapidamente, in un volume edito, che raccoglie gli atti di un seminario della CEI, una rassegna bibliografica della letteratura sul tema di questi ultimi anni a cura di Cosimo Scordato. Qui io non intendo proporre neanche la tematica intera del complesso e multiforme rapporto fra la Chiesa e la carità, in parte l'ho fatto ormai parecchi anni fa in quel volume De Caritate Ecclesia, edito dall'Atti. Come questa mia relazione, che non è da rosminista, perché non tocca i materiali rosminiani, si inserisca dentro questo tema, dipende dalla intenzione del comitato scientifico che ha organizzato questo convegno e mi ha chiesto di presentare questo tema indipendentemente dai testi rosminiani. Poste queste premesse, vediamo dentro quale problematica ci si muove. Otto Hermann Pesch, in un breve articolo nell'Enciclopedia Teologica per la voce Amore, facendo un inventario delle componenti della odierna problematica, indica come centrale in questo tempo post-cristiano la questione dell'amore come unica figura della fede. Ed egli scrive: poiché è in apparenza più pertinente ovviare alla realtà senza amore con lo sforzo dell'amore umano che con lo sforzo della fede nella realtà dell'amore divino, proprio il concetto di amore diventa il punto di partenza della teologia della morte di Dio. Una problematica per certi versi assai paradossale. In questa prospettiva di un dissolvimento della Chiesa stessa, in quanto solo la prassi dell'amore sarebbe luogo di rivelazione, si pone la questione del rapporto tra la prassi dell'amore e la professione della fede, una questione che è già stata rievocata in questi giorni. La questione del rapporto tra la prassi dell'amore e la professione della fede si ricongiunge poi ad un altro grande contenzioso classico, quello della Riforma, con il suo appello all'Evangelo della giustificazione per sola fede, che in qualche maniera emargina la pratica della carità dalla sostanza della giustificazione e dal principio della salvezza. La Fides Fiducialis della tradizione protestante intesa come unico costitutivo della Chiesa, perché unico principio di salvezza, sembra però, stranamente, sembra ricongiungersi con la tradizione scolastica cattolica che ammette la possibilità della fides mortua, cioè la possibilità del credente senza carità, e quindi di un costitutivo della Chiesa che non è la carità, ma è la fides. Ambedue, infatti, sia la fides fiducialis dei protestanti, sia l'ipotesi della fides mortua, ambedue escludono che la prassi dell'amore sia un costitutivo essenziale della Chiesa. Però le due posizioni sono ovviamente molto diverse. La fides mortua dice un puro assenso intellettuale alla dottrina privo della tensione della carità. Però è vero che la fides mortua in realtà non è pensabile nell'ambito del primo atto di fede, ma è pensabile solo come caso limite del credente che appunto pecca e agisce contro la carità e demolisce la dinamica della carità dentro di sé attraverso il peccato, però resta credente e resta membro della Chiesa. Il catarismo di qualsiasi tipo, di qualsiasi forma, è sempre stato inteso come eresia nella tradizione cattolica. Comunque sia, ambedue le figure, quella della fides fiducialis e quella della fides mortua, indicano una inevitabile dialettica tra il dono della fede, la professione di fede e la pratica della carità. Ci sono posizioni però da tenere ben presenti, perché sono di grande prestigio e di grande influenza sia nella teologia cattolica che in quella protestante, che tendono ad eliminare questo problema che stiamo mettendo a fuoco. La problematica indicata sembra perder senso su due direzioni diverse. In una direzione, la concretezza storica della pratica dell'amore viene affermata come il luogo di realizzazione della Chiesa, e un po' sulla linea del problema centrale indicato da Otto Hermann Pesch all'inizio. In una seconda direzione, invece, la Chiesa sembra realizzarsi nell'agape divina, solo però uscendo, in qualche maniera, liberandosi, scrollandosi di dosso, la sua condizione empirica, che è e resta, in quanto tale, sempre compromessa dal peccato, quindi sempre segnata da dinamiche contrarie a quella dell'agape. Credo che sia utile un pochino esaminare un po' più da vicino queste due fughe dal nostro problema. Una carità letta nella storia come unico luogo di realizzazione della Chiesa. È stato osservato che oggi più di ieri si starebbe sviluppando un'autocoscienza ecclesiale per la quale la Chiesa si sente essenzialmente costituita dalla prassi dell'amore. Ho in mente alcuni testi di Carlo Molari, per esempio, caro amico con cui da 30 anni litighiamo, con molta amicizia, perché è un uomo amabilissimo. Scrive Carlo Molari: non costituisce la Chiesa chi ha semplicemente una retta dottrina, ma chi manifesta l'amore di Dio agli uomini. E ancora, la fede può essere indotta solo da una comunità che ama. Il costitutivo essenziale della Chiesa è la prassi dell'amore. Non che si ignori l'indispensabile riferimento a Cristo, in quanto la prassi dell'amore costitutiva della Chiesa è rivelativa dell'amore di Dio, è manifestazione, segno dell'amore di Dio. E questo per il suo riferimento a Gesù Cristo. Però è nel punto del riferimento a Gesù Cristo che il problema si complica. In questo riferimento l'elemento principale ed originario non starebbe nella dimensione veritativa, ma nella tradizione della prassi di amore di Gesù. Ecco, ma fino a che punto questo gioco tra dimensione veritativa e prassiologica, fino a che punto si muove, dove arriva questo gioco? Un tale costituirsi della Chiesa eliminerebbe qualsiasi dialettica tra la pratica dell'amore e la professione della fede, nel caso che prescindesse da qualsiasi trasmissione, diciamo pure verbale, di una notizia su Gesù. Da qualsiasi dimensione veritativa, anche nel suo senso elementare di narrazione su Gesù. Se però così fosse, in questo caso l'autentico realizzarsi della Chiesa comporterebbe, paradossalmente, il dissolvimento di ogni confine che tendesse a delimitare la Chiesa, e quindi a darle forma empirica storicamente verificabile. Sarebbe difficile in tal caso sfuggire ad una concezione attualistica della Chiesa che si realizzerebbe puntualmente dovunque, solo là dove in atto è vissuta una storia di amore. L'altra direzione sulla quale la problematica tende a scomparire. In quest'altra direzione vorrei prendere solo due grandi nomi e due casi tipici, uno cattolico e uno protestante, Charles Journet, nella sua teologia sulla santità della Chiesa, e Karl Barth nel commento all'Epistola ai Romani. L'essenza della Chiesa, in uno di questi due casi, consiste nell'amore divino e non è toccata dall'esperienza storica degli uomini, non è toccata, non è infranta, non è ferita dalla esperienza del peccato. Nel caso di Barth, invece, la posizione sembra radicalmente rovesciarsi, mi riferisco solo al Barth dell'Epistola ai Romani. Nel caso del primo Barth, la posizione sembra decisamente rovesciarsi, perché invece la Chiesa è costitutivamente peccato, perché l'agape divina non sta nelle opere dell'uomo. Scrive Carlo Barth, pagina 314 dell'Epistola ai Romani, nella edizione di Feltrinelli del 62. La Chiesa è il tentativo più o meno vasto ed energico di umanizzare, temporalizzare, oggettivizzare, mondanizzare il divino, di farne un qualcosa di pratico, e tutto ciò per il bene degli uomini. L'Evangelo è la soppressione della Chiesa, e la Chiesa la soppressione del Vangelo. E ancora, pagina 317, dove la Chiesa raggiunge il suo scopo, come servizio reso dall'uomo all'uomo, essa fallisce al fine di Dio, e il giudizio è alla porta. La Chiesa, quindi, è peccato, sembra di poter dire, per il solo fatto di pretendere di esistere. Di esistere come elemento di mediazione, come dato rivelativo della parola di Dio attraverso la sua esistenza e le sue opere. E Barth descrive con grande passione anche l'immane sforzo della Chiesa di convertirsi e di riformarsi continuamente, ma proprio questo suo sforzo di superare il peccato, proprio questo è la negazione dell'Evangelo, l'Evangelo della salvezza per sola grazia. Questo suo non voler morire è la sua vera tragedia. Nel momento poi, citazione da Barth, questa ultima espressione, nel momento poi in cui i credenti che compongono la Chiesa accettassero veramente l'Evangelo della salvezza per puro dono, la Chiesa a quel punto si dissolverebbe. Allora avverrebbe il miracolo, così lo chiama, che la Chiesa di Esaù diventa la Chiesa di Giacobbe. Però, citazione, soltanto la Chiesa di Esaù ha ancora e sempre bisogno delle siepi che dividono Israele da Edom, i giudei dai pagani, i credenti dai non credenti. Quando nell'attimo eterno la Chiesa di Giacobbe sorge in Cristo, le siepi sono abbattute. Sarebbe qui utile ricordare anche la classica opera di Nigren, Eros e Agape, per quanto si ricongiunge per certi aspetti, tradizione protestante che Barth radicalizza. All'estremo opposto del radicalismo protestante vedo la teologia, l'ecclesiologia di Charles Journet, il quale vede nella carità un costitutivo essenziale della Chiesa, al punto che il peccato, come negazione della carità, resta dei singoli e solo dei singoli cristiani, senza mai penetrare la Chiesa né comprometterla. Non accetteremo mai che si identifichi, citazione, non accetteremo mai che si identifichino con la Chiesa i peccati dei suoi membri, con il cristianesimo le sozzure dei cristiani. Non accetteremo mai. La Chiesa per Giunè è solo e totalmente santa, nonostante la presenza in essa di cristiani peccatori. Allora, a livello empirico, la Chiesa si presenta come un insieme di credenti che sono peccatori. Però l'essenza della Chiesa non è percepibile a livello empirico, ma solo a livello teologico. Questa distinzione sarebbe tutta da discutere. Che teologia della Chiesa si possa fare prescindendo dal livello empirico? Da questo punto di vista, dal punto di vista teologico, la Chiesa è composta di peccatori materialiter, ma formaliter essa si compone solo di ciò che anche nei peccatori è nella carità ed è santo, non invece dei loro peccati. Quindi, in un certo senso, la Chiesa nel comporsi passa al setaccio, la concretezza empirica delle persone che la compongono, e assume ciò che è santo e lascia, con una specie di taglio dentro la vita concreta delle persone, lascia altrove il peccato. In conclusione si può dire che sia il radicalismo barthiano, sia il formalismo soprannaturale, lo chiamerei così, di Charles Journet, costituiscono due forme di ecclesiologia, ambedue fondamentalmente incapaci di prendere sul serio la forma empirica della Chiesa come vero e proprio soggetto storico. L'agape divina in nessuno dei due casi è principio di qualcosa che davvero accade nella storia e la muove. Resta il costitutivo della Chiesa, ma non della Chiesa come soggetto storico. Sarebbe interessante fare anche una lettura di Maritain, che poi porta avanti con ancora maggior decisione le tesi di Journet, quando Maritain, con rigore assoluto e senza timori, dice: il soggetto storico della Chiesa, è il magistero nei pronunciamenti infallibili, è il ministero ordinato nella celebrazione dei sacramenti, è la vita del santo, ma di quello canonizzato. Cioè, solo là dove il soggetto Chiesa agisce nella storia con carattere assolutamente santo e divino. Tutto il resto non è il soggetto Chiesa, ma è solo la massa dei cristiani ad agire nella storia. Bene, mi pareva utile rievocare queste posizioni, perché ci mettono di fronte a quello che è il nodo centrale di tutta quanta l'ecclesiologia e che anche nel nostro tema incontriamo. Cioè il passaggio dal misterico all'empirico. Questo che è un nodo, è uno snodo anche, no? Del passaggio dal dono della grazia alla forma empirica della Chiesa, la Chiesa come soggetto storico. Grazia, carità e comunione, l'augurio di Paolo nella seconda lettera ai Corinzi 13:13, la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito siano con tutti voi. Grazia, carità e comunione, che noi pensiamo come elementi costitutivi della Chiesa, sono quindi realtà divina. La caris è del Signore Gesù Cristo, l'agape e del Theos, di Dio, la coinonia dello Spirito Santo. E l'augurio di Paolo è che tutto questo sia con noi, questo sia con voi. Caris, agape e coinonia sono quindi in senso stretto, strettissimo, oggetto di fede, sono un creditum, non uno scitum, direbbe Tommaso, sono oggetto di fede. Se oggetto di esperienza, ma qui il discorso si farebbe complesso, si dovrebbe parlare solo oggetto di esperienza mistica. Non di un'esperienza empiricamente verificabile, storiograficamente oggettivabile. Però, detto questo, il problema non può ritenersi chiuso, né può essere chiuso, credo, a questo punto, pena le conseguenze notevoli che abbiamo indicato, con quel taglio netto che, da due sponde molto diverse, operano in maniera simile sia Barthes che Journay. Secondo la classica opera di Nigrén su Eros e Agape, quella dell'agape è una nozione collettiva che non può fondarsi sul quadro individualistico della morale, che è quello eudemonistico dell'eros e non dell'agape. Però se questo pensiero va preso sul serio, allora il carattere collettivo dell'agape pone il problema della Chiesa come soggetto collettivo, e la cui azione allora si pone necessariamente sul piano storicamente verificabile. Che senso ha parlare di un soggetto collettivo di cui io non posso verificare la storia, l'azione storica, la dinamica storica? Ci si domanda allora in che modo caris, agape e coinonia costituiscono la Chiesa empirica, cioè il soggetto storico collettivo che è la Chiesa. Come l'agape divina possa sussistere nella condizione della carne, cioè del peccato e della caducità che contrassegnano la storia umana? Come possano costituirsi come la dinamica storica del soggetto collettivo della Chiesa? Questo mi pare è il problema della carità e della Chiesa. C'è un'unica accoglienza del dono dell'agape di cui noi possiamo parlare come di un dato empiricamente verificabile, senza dubbio, ed è quella che avviene nella comunicazione della fede. Perché se la presenza del caris, dell'agape, della coinonia emerge, è presente, è detta, è creduta, è detta, è creduta, è professata nella professione di fede e nella comunicazione della fede, senza dubbio qui abbiamo un elemento nel quale noi incontriamo dei soggetti che formano tendenzialmente un soggetto collettivo che si costituisce sulla base dell'autocoscienza della caris, dell'agape e della coinonia in Cristo. Nel Cristo conosciuto, creduto, conosciuto e creduto, conosciuto secondo la carne, creduto secondo lo spirito e comunicato nella esperienza della comunicazione della fede. Ora, questo fattore, questo fenomeno di comunicazione, con tutta la sua dimensione profonda del creditum che contiene, non può essere ridotto senza dubbio a un puro consenso speculativo dei soggetti che compongono il fenomeno. Perché gli asserti di carattere veritativo della narrazione su Gesù, perché quando si parla di carattere veritativo si pensa subito alle formulazioni le più astratte del dogma e della dottrina, ma in fondo la prima ortodossia è dire che Gesù è morto in croce e la prima eresia sarebbe dire che Gesù è morto di vecchiaia nel suo letto, cioè è il dato veritativo del narrato, no? Ora, gli asserti della narrazione su Gesù non sono mai puramente constativi, non hanno valore veritativo come fine a se stesso, ma sono per natura loro performativi in quanto, appunto, tendono al consensus fidei fra i protagonisti della comunicazione. Sono tesi a far emergere il dono interiore della comunione nella creazione di una comunità empirica, che si fondi su questo fenomeno della comunicazione della fede. Potremmo anche dire che ogni narrazione su Gesù e ogni affermazione su Gesù, ogni asserto su Gesù, viene dall'amore di chi evangelizza, se non è atto di proselitismo, con tutte le sue connotazioni negative, egocentriche. Ogni atto di evangelizzazione viene dall'amore e non ha senso se non in quanto si propone all'amore di chi l'accoglierà. Perché si sa bene che non sarà possibile nessuna accoglienza della notizia se non in una dinamica di amore e di consegna di se stessi al Signore che viene comunicato e proclamato tale. Quindi l'atto comunicativo che costituisce l'inizio della dinamica comunitaria veicola dentro di sé essenzialmente, come suo elemento costitutivo essenziale, la tensione della proesistenza di Cristo stesso. Non conosciamo altro che Gesù Cristo e Gesù Cristo crocifisso. La proesistenza di Cristo è in rapporto al Padre e in rapporto agli uomini. Prima Giovanni 3,16, da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Sembra quindi che il passaggio dal mistero della carità di Dio, che costituisce la Chiesa nel suo livello misterico, alla carità come struttura empirica dell'esistenza ecclesiale, comporti una disponibilità della Chiesa stessa all'autoespropriazione. Per questo von Balthasar afferma che il problema dei confini della Chiesa è il problema più arduo di tutta l'ecclesiologia, perché nel momento in cui la Chiesa si costituisce sembra distruggere i suoi confini. La figura bartiana della Chiesa di Esaù, che diventando Chiesa di Giacobbe vede cadere le siepi, non è necessariamente una fuga verso la invisibilità della Chiesa, bensì indicazione di una esigenza di autenticità, di una percezione della natura costitutiva della Chiesa. Però questa osservazione non può ridursi alla indicazione di un dover essere, poiché coglie l'elemento cruciale della incarnazione dell'agape divina nella storia. Ora qui, la tradizione protestante vede nella formula della scolastica cattolica caritas forma fidei il massimo fraintendimento della fede. Si teme infatti che il valore salvifico della fede possa in qualche maniera dover ricevere conferma o prender forma dalle opere dell'amore umano. Ma se la carità è tensione all'autoespropriazione, è un agire essenzialmente recettivo, allora, come puro lasciarsi trasportare verso l'altro dall'agape divina incarnatasi in Cristo. Tutto ciò che nell'agire della Chiesa e nella sua struttura si pone invece come desiderio della propria autorealizzazione, questo è l'eros, questo è il peccato della Chiesa. La struttura ecclesiale della carità consiste allora essenzialmente nella recettività. Ma siccome il carattere di eros del desiderio di esistere, in fondo, è ineliminabile perché la Chiesa possa esistere nella storia e agire nella storia, allora qui siamo forse al punto cruciale della contraddizione. La struttura ecclesiale della carità, potremmo dire, dell'ultimo punto che sul quale voglio presentarvi qualche riflessione, la struttura ecclesiale della carità consiste allora essenzialmente nella recettività del perdono e della grazia della conversione. Ed è questo l'ultimo punto nel quale, ecco, così vorrei indicare una possibile via di uscita dalle contraddizioni descritte. Un singolare quadro della dinamica della carità lo troviamo in Luca 7:36-50, l'episodio della donna in casa di Simone, del fariseo, dove troviamo questo curioso incrocio di due logiche diverse. Nella parabola che Gesù racconta in quell'occasione dei due debitori che hanno il debito condonato, nella parabola si conclude: chi di loro, dei due debitori, amerà di più? Lo amerà di più il padrone che aveva condonato il debito? Simone rispose: suppongo colui al quale è stato donato di più. Quindi qui l'amore è il frutto del dono, il frutto del perdono. Nel giudizio invece che Gesù dà sulla donna, sembra che si rovesci la logica. Lì l'amore deriva dal perdono. Le sono rimessi molti peccati perché ha amato molto. Cioè, o il perdono deriva dall'amore, o l'amore deriva dal perdono. Ma questo incrocio di due logiche diverse è abbastanza interessante, in quanto peccato e perdono sono interni alla dinamica dell'amore, nella condizione di una Chiesa che vive solo in quanto redenta. E non solo in quanto redenta in una specie di punto magico iniziale che poi dà luogo ad una storia tranquilla, ma in quanto in ogni momento redenta, non una volta per sempre. In questo senso mi pare che la soluzione di Journet al problema della santità e del peccato nella Chiesa, mi pare che non scalfisca il vero problema, che si colloca proprio nel punto in cui l'agape emerge nella comunione empirica delle persone concrete che formano la Chiesa. Se si scioglie questo nodo, il problema non si risolve, ma si annulla, semplicemente. Anzi, la formula di Journet, la Chiesa Santa, i cristiani peccatori, che pure ha dietro a sé una grande tradizione, ma questa formula potrebbe essere anche indicata come una responsabile di quel costume ecclesiastico che sembra voler esonerare dal passaggio della conversione il soggetto collettivo Chiesa, mentre se ne carica la responsabilità sul soggetto individuale cristiano. Il cristiano deve perdonare, la Chiesa per perdonare Rosmini ci deve impiegare un secolo e mezzo. Ecco. Cioè, il cristiano perdona, la Chiesa perdona, la Chiesa. Cioè, la Chiesa è santa e sembra essere fuori, al di sopra della esigenza del singolo cristiano. Ora, la Chiesa non può ritenersi fondata sulla sua carità, come prassi di amore derivante dalla sua potenza. Se così fosse, che si fonda sulla sua carità, certo, nel momento in cui vi si registra il peccato, essa cade nel nulla. Fondata invece sul dono della fede, come pura accoglienza dell'amore di Dio che l'avvolge, trova nel dono della fede il perdono e il principio della conversione. La bella espressione del Messale romano, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. La tesi di Hans Küng, a dir poco assai discutibile, sulla fede della Chiesa, che potrebbe persistere intatta anche se non ci fosse nessuna infallibilità, perché la Chiesa giungerebbe alla verità anche passando di errore in errore, perché la verità della fede, la verità della Chiesa è nell'escaton, è davanti a noi e non dietro a noi, la famosa tesi di Hans Küng, a mio giudizio inaccettabile sul conto della fede e della infallibilità, potrebbe essere ritenuta interessante per la carità della Chiesa. In quanto l'agape divina che abita la Chiesa è essenzialmente amore di Dio che perdona. Quindi, in un certo senso, l'amore di Dio che perdona è corrispettivo di una santità intrecciata col peccato, di una santità perdonata, continuamente perdonata. È indispensabile una infallibilitas in credendo perché la Chiesa sussista, però forse non esiste una infallibilitas in amando della Chiesa. Prima lettera di Giovanni 1,9, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto, liberandoci dai peccati e purificandoci da ogni ingiustizia. Se diciamo che non pecchiamo, lo rendiamo bugiardo. Quindi il riconoscimento del peccato è condizione della verità su Dio, perché il Dio che ci salva è il Dio che ci perdona. Se il discorso deve riguardare non i singoli cristiani, perché su questo c'è una grande ricchezza di esperienza e di riflessione teologica, se il discorso deve riguardare non i singoli cristiani, ma la Chiesa empirica in quanto soggetto storico collettivo, allora è chiaro che in questo discorso sono coinvolte le strutture comunitarie, perché il soggetto collettivo, va bene, non, non è imputabile di peccato nel senso della coscienza individuale, ma lo strumento dell'agire e della dinamica storica del soggetto collettivo è la struttura, evidentemente. Il soggetto collettivo non agisce se non attraverso la struttura. Allora, cosa vuol dire che le strutture comunitarie della Chiesa, come strumenti e luoghi nei quali il soggetto collettivo agisce in quanto tale, cadono sotto questa visione complessiva dell'amore che perdona e della santità perdonata? Tutti sappiamo quanto la storia ci dimostri l'esistenza di norme canoniche, di istituzioni e di prassi ecclesiastiche che lungo il tempo si sono rivelate contrarie alle esigenze dell'amore fraterno, quando non addirittura dei diritti dell'uomo. Ora, se questo è avvenuto nel passato, lapalissiano, vuol dire che la Chiesa non è garantita né oggi né nel futuro dal dar vita a strutture, dall'agire come soggetto collettivo sulla base di strutture ecclesiastiche che sono sottoposte al peccato. Per questo la struttura ecclesiastica ha bisogno di lasciare spazio al suo interno perché la carità che perdona, l'amore di Dio che perdona, agisca come agisce nella coscienza dell'individuo, perdonando e redimendo, così agisca dentro la struttura ecclesiastica come principio di riforma. Ecclesia sempre reformanda. Credo che sia una specie di conseguenza di una concezione dell'agape divina che perdona e che risiede nella Chiesa come forza di perdono. Quindi la contraddizione più profonda alla carità come costitutivo della Chiesa sarebbe il blocco che la disciplina canonica paradossalmente potrebbe porre all'azione dell'agape divina, impedendo la riforma delle sue proprie strutture. La forma della proesistenza e dell'autoespropriazione che caratterizza l'esistenza di Cristo come rivelazione dell'amore divino, questo fa parte della grazia di cui vive la Chiesa e ha bisogno di trovare spazi aperti per le sue dinamiche. Il nostro commemorare la vicenda di Rosmini in questi giorni ci fa sentire in maniera più viva anche questo problema, perché la riforma dovrebbe venire da contestazioni extracanoniche che poi solo post factum diventano canoniche, e perché invece il principio riforma non dovrebbe essere inscritto per rispetto alla struttura essenziale stessa della Chiesa che vive della grazia di Dio che perdona dentro la struttura canonica stessa. Naturalmente questo è un problema da rimandare, sia a livello del de jure condito che del de jure condendo, ai pastori della Chiesa e ai canonisti. Concludo. La carità è costitutivo della Chiesa? Ci si domandava nel titolo sull'ovvietà o non ovvietà di questo asserto. Direi che la carità è costitutivo della Chiesa nel senso che la Chiesa è costitutivamente sotto il perdono di Dio e ha come grazia che la costituisce il principio della conversione e il principio della riforma. Grazie. L'analisi di Diani ci ha ricomposto, un po' scomponendo però il tutto, i tasselli di un mosaico che difficilmente si ricompone e si ripresenta in maniera compatta, ed è penso un'offerta di materiale che andrebbe ripresa e poi discussa, perché per quanto posso brevemente dirne io, tacendo subito, il fatto per esempio della comparazione fra Charles Jouvenet e Barthes mi trovo un po' perplesso, perché il profetismo ascetico di Jouvenet non mi pare compatibile o non compatibile con le asperità di Barthes, ma questo è uno dei tanti problemi che potremmo dibattere e che penso non avremo tempo di dibattere, perché Diani ci mi anticipava che dovrà partire fra un po', e quindi non so la eventuale discussione come se potrà su questo punto farsi e proporsi. Anche perché mi pare di dover dire a questo proposito di aver colto una sorta di linea che serpeggia un po' nell'ambito di questo convegno. Una polemica un po' così sofferente, sofferta, tra ciò che si dice e si dà o si fa capire come speculativo e ciò che è la prassi o la prassiologia, che in un certo modo in questi tempi e in questi giorni morte la fecondità della vocazione cristiana. Io a questo proposito penso sempre che c'è stato un momento nel quale la prassiologia ha vestito panni che tornano ancora oggi, e il cosiddetto speculativo è rimasto invece quello che era fin dall'inizio, la parola pura, la forza, la potenza della parola. Paolo, gli Efesini, Demetrio, l'argentiere, cioè la prassi sconvolta dalla parola. La prima rivoluzione che è stata fatta contro la conversione cristiana l'hanno fatto gli argentieri a Efeso con Demetrio, il quale si vide sconvolto il commercio dalla parola, soltanto dalla parola di Paolo. Cioè le statuine di argento di Diana non furono più commerciabili dopo lo sconvolgimento della parola. Credo che sia un tema ancora attuale, perché non so quanti sono ancora oggi i Demetrio che si annidano nella Chiesa, fuori dalla Chiesa e attorno alla Chiesa. Ci ho detto e chiedendo scusa dell'incursione, mi tocca dare la parola a Paul Renner, docente di teologia fondamentale nello studio teologico di Bressanone e di teologia delle religioni presso l'Istituto di Scienze Religiose di Trento, tutto bene, il quale ci intratterrà o ci reimmetterà in un filone più direttamente rosminiano, perché parlerà della fedeltà e profezia nell'ecclesiologia di Rosmini. Prego.